svegliarsi gustando il mattino, senza il bisogno di scandire il tempo, ansie e timori saranno parole mancanti dal vocabolario. Come fratelli fusi come coralli presso scogli in un mare da bere, fiordi verdi e vertiginosi accarezzati da brezza atlantica, stare in perpetuo mano nella mano, respirando l'odore di pioggia e di vita, e poi rincontrarsi tra cento saggi e coscienti. Apri i tuoi occhi, mio caro amico, non credere solo a ciò che ti dico. Se sei sincero, vedrai tutto vero. Non è un miraggio, dai fatti. Di rosso col mio caro bisnonno, quando l'età non conta le rughe che in fronte, progettare e sognare sarà ciò che equivale, dove la mia morale ad ogni vita è uguale e l'amore prevale a livello mondiale, estendendosi verso l'universale.